Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon. Oggi mercoledì 8 marzo e noi dedichiamo questa giornata alle donne pensando a quelle figure femminili che hanno dato grandissima rilevanza alla redazione del Pioniere, in particolare nel periodo dal 50 al 62, quando il giornalino usciva in maniera autonoma. Lo facciamo cominciando dalla direttrice Dina Rinaldi, per 3 anni co-direttrice con Gianni Rodari, poi tutto il peso redazionale sulle sue spalle. Ce la racconta peraltro un'altra donna importante nella redazione del Pioniere, Luciana da Romoli, già staffetta partigiana nella Resistenza romana, poi dopo la liberazione si dedicò alla cura dei ragazzi nelle baracche della capitale e quindi entrò instancabile nella redazione del Pioniere, che così ricorda la Dina Rinaldi come figura umana e anche come grande idea di educazione dei giovani e come anche propulsiva nell'attività dell'Associazione Pionieri Italiani. Ascoltiamo. Dina Rinaldi, guarda, era una persona che voleva, lei già si occupava dei bambini un po' più grandi, quelli che avevano dagli 8 ai 12 anni. Lei lavorava con Rodari sempre nello stesso gruppo? Dove sempre anche nello stesso gruppo, però dopo, quando Rodari è andato via, lei è rimasta. Allora lei che cosa mi ha chiesto? A me, quando è andato via Rodari, il partito mi ha richiamato in direzione. Allora lei che cosa ha fatto? È venuto a parlare con... Io lavoravo con Giorgia Mendola. È venuto a parlare con Giorgia Mendola per dirgli no, tu me la devi lasciare, almeno un altri 5-6 mesi me la devi lasciare. Perché... E io che hai fatto un'esperienza, lei aveva bisogno lei, di persone. Allora, le cose che indicava la Rinaldi era che i bambini dovevano fare sport, dovevano imparare a dire la verità, anche se era una cosa dolorosa, dolorosissima, bisogna dire sempre la verità, mai nascondersi dietro le bugie. Le insegnanti devono imparare che quando fanno fare una versione in prosa ai bambini, le cose, per esempio, in quel periodo i bambini facevano la divisione delle parole in sillabe, no? Sì. Cane, bar, bara. Allora, lei che cosa diceva? Se loro sbagliano queste sillabe, sì, voi dovete capire perché. Questo errore perché l'ha fatto? Che cosa voleva dire lui con questa cosa? Ma Dina Rinaldi che formazione aveva? Lei era laureata in filosofia, era laureata in pedagogia. E aveva avuto esperienze comunque con i bambini anche prima del Pioniere? Sì, certo, certo. Ma lei era una cosa, guarda, a me commuoveva. Quando io andavo a lavorare con lei, mi commuoveva. A parte, io con Rodari c'avevo un rapporto diverso, c'avevo un rapporto di pari, alla pari, sì, capito? Invece con Dina Rinaldi, lei, io avevo bisogno di lei, perché io non conoscevo la filosofia, non conoscevo la pedagogia, quindi lei, praticamente, quando lei parlava, io prendevo gli appunti e mi ricordo lei una volta mi ha detto: senti Luciana, spiegami perché tu prendi gli appunti. Gli ho detto: io prendo gli appunti perché tu sei una filosofa, sei una pedagoga. Io da te devo imparare. Per esempio, io sono una persona molto violenta, perché la vita, sai, la guerra, i bombardamenti, ti hanno fatto diventare violenta. Io dovevo imparare da lei, io glielo dicevo a lei, io devo imparare. Come vi posso dire? No, l'educazione, perché non è parola giusta dire l'educazione. Reagire in modo diverso. Reagire in un modo, cercare di capire l'interlocutore e noi di non aggredirlo. Mm-hmm. Invece io invece ero molto, molto aggressiva, capito? Mm-hmm. E lei mi ha aiutato tanto. E Dina Rinaldi è rimasta fino a quando? Ti ricordo? Lei poi è rimasta nel partito, lei faceva parte della commissione sì. femminile. È stato mai osteggiato il pioniere, so del periodo sì. in cui... E beh, sai perché? Sì. Perché faceva la guerra, all'azione cattolica. Noi portavamo... Allora, nelle parrocchie i figli dei comunisti non potevano entrare perché c'era stata la scomunica, no? Sì. Allora... Noi dovevamo fare delle attività con il campeggio, con le cose, portare i bambini al campeggio, perché i bambini dovevano essere liberi, ma liberi anche di formarsi una coscienza. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? E dopo Luciana Romoli e Dina Rinaldi, un'altra figura basilare nella redazione del Pioniere, anche se lei stava dietro le quinte. Parliamo di Ada Gobetti, una figura nobile, combattente durante la Resistenza sempre, poi con un occhio particolare alle donne, anche quando era esula a Parigi, nel dopoguerra vice sindaco a Torino e poi appunto così grande teorica della nuova educazione, tant'è che poi creava dei fascicoli per gli istruttori del Pioniere per così istruirli su come muoversi nella difficile campagna di alfabetizzazione e di istruzione di ragazzi molto spesso poverini e semi analfabeti. Poi cominciò a parlare direttamente ai genitori con una rivista appunto che si chiamava Noi Genitori, ma sentiamo qualche tratto delle sue coordinate pedagogiche del tutto rivoluzionarie. Educazione è partecipazione. Non si possono educare i ragazzi isolandoli dal mondo che li circonda, bensì aiutandoli a considerare come cosa propria tutto ciò che è umano, a non porre limiti al desiderio di esperienza e di conoscenza, ad accettare responsabilità personali e collettive, a credere nelle capacità proprie ed altrui di rimediare ai mali esistenti e prevenire le rovine future. Gli adolescenti d'oggi hanno possibilità addirittura impensabili solo 30 anni fa. Ma perché allora non sono soddisfatti? L'adolescente si trova dotato di una forza che non può ancora tradurre in atti responsabili. Se arrivasse a capirla e ad usarla, diventerebbe, dopo la crisi del passaggio, equilibrato e felice. Ma troppo spesso non sa come utilizzarla e tale forza rimane quindi disponibile. Di questa disponibilità si sono impadroniti prima i fanatici, vestendo i giovani con una divisa e mettendo loro un'arma fra le mani. Ora l'hanno scoperta i commercianti e la sfruttano per i propri interessi. Queste erano alcune riflessioni di Ada Gobetti, importantissima collaboratrice del Pioniere, la rivista Fumetti diretta da Gianni Rodari. Sentiamo qualche altra riflessione sull'obbedienza. Per secoli, nella pratica educativa, l'obbedienza è stata considerata la massima delle virtù. Il bambino buono non è forse tradizionalmente quello che obbedisce? È vero, il bambino deve obbedire finché non ha imparato a guidarsi da solo, e anche l'adulto, secondo gli imperativi morali della sua coscienza. Questa è maturità. Ma ogni valore cade quando l'obbedienza diventa un fatto passivo, quasi meccanico, e non si accompagna ad una chiara e precisa volontà. La storia ci ha insegnato come sia facile, dall'indiscriminata obbedienza, precipitare in quella volontà di servire, in quella viltà superflua che nel rifiuto di ogni opposizione lascia la via aperta alle prepotenze e alle peggiori sopraffazioni. Someday you come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love, then when he comes my way. Da Ada Gobetti a Luisa Sturani, che assieme al marito Mario Sturani portarono importanti apporti al Pioniere. Luisa in particolare si dedicò moltissimo alla rievocazione della storia della Resistenza, perché anche nel 1950 c'era la tendenza a dimenticarsi delle lotte partigiane, un po' per interesse politico democristiano e un po' per dimenticare con la Resistenza anche gli orrori della guerra. Si dedicò molto a questa epopea resistenziale sul Pioniere e così la ricorda il figlio, intervistato sempre da Morina Moretti. Comincia a collaborare col Pioniere negli anni nel 51-52. Mio nonno è stato in prigione nel 36-37-38. Mia madre insegnava e questo sfollamento, erano stati dei bombardamenti su Torino, ha fatto sì che siamo stati ospitati da gente di una, in questo paesetto di montagna, da gente di una povertà, di una miseria, di una arretratezza, diciamo, trogloditica. Certo, non per colpa loro, ma insomma si è resa conto che il popolo viveva molto male e quindi tutti e due sono diventati visceralmente comunisti, cioè proprio credendoci perdutamente, cioè quindi anche credendo a tutto quello che l'URSS voleva far credere. D'altra parte è stato pieno di grandi intellettuali che si sono bevuti la propaganda sovietica. Jean-Paul Sartre, grande filosofo, era perfettamente convinto della bontà di Stalin e dell'URSS. Quindi sua madre è diventata una militante comunista. È diventata una militante. E quindi è stata chiamata per collaborare al Pioniere. Nel 50 presentata alle elezioni per partito, la candidata centrale di Torino pensava che avrebbe portato voto, ma lei aveva messo come condizione che se per caso usciva di non andare a Roma, insomma, si giudicava più importante mantenere insieme la famiglia e tenere il lavoro che aveva. Lei ha scritto questa storia, I partigiani del SAR, che non mi ricordavo che fosse stata pubblicata anche sul Pioniere per bambini. Sì, allora sul Pioniere è pubblicata a puntate e quindi una volta a settimana col titolo Storie partigiane e quindi ogni settimana c'è una storia diversa legata alla lotta partigiana, che sono storie raccontate semplicemente, anche molto accuratamente, con molta passione. Sì. E mentre i partigiani del SAR probabilmente credo che le raccolga insieme dandogli un capo e una coda, ed era stato pubblicato da Paravia, essendo comparso in qualche modo tra le pubblicazioni legate al Partito Comunista, era stato annusato in Unione Sovietica, tradotto. E mia madre una volta, approfittato che c'era, che la Juve giocava contro il Dinamit di Mosca, una cosa così, ha approfittato del viaggio a prezzo ridotto con un'amica di origine russa, è andata e si era fatta ben istruire su come prendere i diritti d'autore, perché l'Unione Sovietica riconosceva il diritto d'autore ma non permetteva di portare i rubli fuori all'estero. Allora mia madre non è che fosse, come dire, convinta che ci fosse da guadagnare, ma voleva avere un'esperienza diretta dall'interno, cioè lei diceva si portano a vedere le fabbriche, gli esili nido, fanno vedere quello che vogliono loro, ma se io chiedo di andare al terzo ufficio del sesto piano del Ministero dei beni culturali loro, da cui dipende il diritto d'autore, vedo io quello in cui mi imbatto. e con grande stupore scopre che aveva tirato non so quante milioni di copie e che le mettevano, l'hanno messo in mano il corrispondente, come fosse oggi di, mettiamo, 10-20 mila euro. Cioè una cifra però che lei mai, neanche lontanamente, si sarebbe aspettata, ma che era comunque infinitamente di più di quello che aveva potuto avere in Italia. A funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? E dal ricordo di Luisa Sturani passiamo invece a quello che potremmo definire il milite ignoto del pioniere, molto al femminile. In particolare le donne spesso erano invisibili. Le ha recuperate, dato la giusta importanza, questo intervento che abbiamo registrato al tempo con la grande esperta di illustrazione per ragazzi, Paola Polottino. Vanterà una mezza dozzina di donne, i cui contributi indubbiamente porteranno una ventata di grazia, di fantasia, in antitesi ai caratteri e alle vicende tipicamente maschili dei fumetti. Allora, se è non è impossibile ricostruire il cognome di tante firme femminili, Rosella, che non sono riconducibili ai relativi cognomi, esaminiamo l'opera di quattro artiste. Quattro artiste che realmente si impongono, e poi questa presenza sul pioniere così sarà una prima tappa di un cammino glorioso. La prima è Flora Capponi, sposata giovanissima, poi con altri due cognomi, Rasera e Berna, che non ho ben identificato. Nasce nel 1920 a Roma, sarà la colonna del settimanale dove firma le prime vignette e le strisce, come quella di un personaggino che si chiamava Coriandolo, con la sigla FC, Flor o Flora. Allora, lei è una scenografa, illustratrice, militante antifascista e, udite udite, sorella della partigiana Carla Capponi, per cui colonna del pioniere sin dal primo giorno. Nel 51-52 vi illustra con vedute, monumenti, personaggi in costume la rubrica Alla scoperta dell'Italia. Poi seguirà una serie di riduzioni da Gulliver, Robinson, Munchausen. Queste sempre illustrate dalla Capponi, dici? Sempre illustrate da Flora Capponi, ma il suo impegno maggiore sarà quello della pagina settimanale, intitolata Le favole di Flora, dove lei reinterpreta le favole di Esopo con brevi linee di testo e soprattutto una serie di vignette molto gustose, molto, molto leggiadre. E in seguito questa pagina sarà firmata da Esopino su testi di Gianni Rodari, e dove lei, al segno di una molto felice vocazione animalista, illustrerà con vignette assolutamente esornative e ricciolute i vari personaggi delle favole di Esopo. Per Rodari, che in una lettera del 73 ricorderà i disegni arabescati di Flora Capponi, illustrerà Il libro dei mesi, Il treno delle filastrocche, tutti e due per le romane edizioni di Cultura Sociale, che poi diventeranno Rinascita nel 53, e nel 52 illustrerà anche Il castello della paura di Olesa Yuri Karlovic. E La storia degli uomini, invece, nel 58, La storia degli uomini, scritta da Gianni Rodari per i ragazzi, ma dedicata ai grandi, in 8 puntate su Vie Nuove. Dal 56, quando illustra una versione a puntate, sempre sul pioniere, di Alice nel Paese delle Meraviglie, la sua firma scompare dalle pagine della rivista. E questo conferma il concentrarsi, stranamente, della sua attività nel corso degli anni 50, quando lei realizza la messa in scena del film Teodora, imperatrice di Bisanzio, di Riccardo Freda, nel 1954, e i costumi sia per L'amore più bello del 57 che per L'uomo dai calzoni corti l'anno successivo, tutti e due diretti da Glauco Pellegrini. E dopo queste date non sono riuscito a trovare altro su Flora Capponi, ma certamente il contributo al pioniere è molto interessante, perché la sua famosa pagina di Favole di Esopo è una pagina settimanale. Perfetto, ma oggi tipo, Flora Capponi è nota, diciamo, tra gli addetti ai lavori a questo punto, o chi si occupa di illustrazioni, illustratrici, è un nome che... Non è, la risposta è no, Soltanto una mia studentessa, quando insegnavo all'università a Macerata, ha fatto una tesi sugli illustratori del pioniere. Però poverina, lei non sapeva assolutamente nulla, la nomina in mezzo agli altri, dice appunto che queste vignette erano molto fiorite, ricciolute, esornative, però non... Perché comunque è molto difficile trovare materiali e riferimenti per... Io ho trovato soltanto un necrologio fatto dalla sorella Carla quando era ancora in vita, e da Rasera, per cui non ho... io ho letto questo libro di ricordi di Carla Capponi, intitolato Col cuore di donna, e lei a un certo punto dice: mia sorella nacque l'anno dopo, per cui si deduce che era nata nel 20, poi a un certo punto dice che Flora si sposò molto giovane e andò a risiedere a Pesaro. Poi risultano questi due strani cognomi, però questo marito di Flora Capponi non sembrava molto, molto bene accetto in famiglia, e comunque a lei poi risultano questi due cognomi, Rasera e Berni, sui quali ho fatto ricerche, ma c'era uno studio di avvocati, ma poi lei cambia città, per cui non so bene, tutto quello che... Se ne perdono le tracce. Devo dire che appunto io la vedo attiva, ricordata a stampa fino al 1958, quando illustra in 8 puntate su Vie Nuove questa storia degli uomini scritta da Gianni Rodari per i ragazzi. E non ci sono altre tracce. Però lei è sempre citata, senza assolutamente dati biografici, in tutti i repertori che parlano di cinema, dove appunto viene detto che ha fatto una messa in scena e poi i costumi. Insomma, risultano 3 film a cui lei avrebbe collaborato. E passiamo alla seconda. La seconda è Giulia Maffai, Roma 1930, mi risulta vivente. Giulia è la terza figlia del pittore Mario e della scultrice Antonietta Raffael, è sorella della giornalista Miriam e dell'attivista politica Simona. Lei si forma ovviamente in un ambiente artistico romano, dove loro, i genitori Maffai, conoscevano tutti, e cresce povera e artistica, nel senso che era una famiglia che... Non aveva certo grandi possibilità economiche, ma aveva altrettanto certamente grandi possibilità artistiche e spirituali. È una costumista, scenografa, illustratrice e autrice di testi sulla moda e di romanzi. Nel 50 illustra il libro delle filastrocche di Rodari, per cui c'è già un legame, e l'anno seguente esordisce sul pioniere illustrando Il re dalle orecchie d'asino su versi di Marina, non si sa chi sia, con tavole surreali, zeppe di immagini stilizzatissime e fiabesche. Dal 51 firma oltre 30 allestimenti di film italiani, di cui realizza i costumi, da Un eroe dei nostri tempi di Monicelli del 55 a Tuppe Tuppe Marescià di Carlo Ludovico Bragaglia nel 58, La Ciociara di Vittorio De Sica 60, Il processo di Verona di Lizzani nel 63, Amici miei di Monicelli nel 75, L'inchiesta di Damiano Damiani nel 86, fino alla Passione di Giosuè l'Ebreo, che è un film di tale Pasquale Scimeca del 2005, per cui lei riprende, ripeto, e tra l'altro oltre che costumista sarà anche scenografa per Altissima pressione di Trapani, Viale della canzone di Piacentini, Yankee addirittura di Tinto Brass nel 66. Allora è singolare che questa Passione di Giosuè l'Ebreo lei la firmi nel 2005. Giulia sarà ideatrice del laboratorio del Carnevale di Venezia dal 78 all'85 e nel 2012-13 espone i suoi disegni alla mostra Dracula e il mito dei vampiri alla Triennale. Tra i suoi libri ricordiamo questa citata Storia della moda per gli editori riuniti nel 98, Storia del costume dall'età romana al Settecento per Schirà nel 2011, poi La ragazza con il violino, sempre per Schirà nel 12, ed è questa ragazza con il violino è la storia un po' della sua famiglia. E infine nel 2017, perciò recentissimo, per Cangemi di Roma, Ebrei sul Tevere, storia e storielle. Paola, ti chiederei questo un pochino più in generale, ora che ci hai appunto raccontato di queste due illustratrici, e come arrivano al Pioniere? E cioè, perché conoscono Rodari, che nel 50 fonda di fatto il Pioniere, ovvero diventa direttore, e quindi per conoscenze, per area politica, perché erano già comunque illustratrici in qualche modo conosciute, avevano già lavorato? Allora, diciamo che è difficile fino all'impossibilità dire se furono chiamate dalla Rinaldi o da Rodari. Quello che è certo è che il fil rouge che le lega tutte è l'antifascismo, ossia sono tutte donne impegnate anche sul fronte sociale, tutte antifasciste, doc, capito? Certo, o vengono in qualche modo dalla resistenza in un modo o nell'altro, proprio avevano già preso posizione molto chiara in epoche precedenti. Sì, certo. sì, sicuramente. Ossia, impossibile pensare che venisse chiamata una che era indifferente o comunque non facesse parte della scuderia, tra virgolette, e dell'antifascismo. Hush now, don't explain, just say you'll remain.